Ok, tutto pronto, coriandoli, stelle filanti, oh, mi raccomando, siamo, questa cosa. Siamo. Oh, merda, merda a tutti, ragazzi. Oh, ma, certo. Ma che stiamo già in onda? Oh. Merda. Metà di sì. Puntata 50, sigla! E ben trovati anche oggi, pensavamo di non riuscirci, invece siamo qui in diretta su Radio Forte 100 Celle Avengers, sabato 27 maggio alle 5 in punto, perché quando Betta si mette in testa che dobbiamo partire giusti, partiamo giusti. Andremo a riascoltare se all'inizio c'è sta, ma porco, De Betta che manda in play, che è anche una cosa di stile. Che non noi rivelare abbiamo. I segreti. Comunque approfittiamo per rivelare appunto i segreti del nostro insuccesso. Franci non sentiva se stesso. Ale. E ancora così, ma vabbè, questo lo risolveremo soltanto con un sonoro applauso. Applauso a chi Bravo, ce la mette Francesco. Tutta comunque ogni giorno qui, i tecnici, Betta, è tutta colpa sua. E infatti io per Grazie. Prima saluto Betta. Salve, ma porco. Grande, grande, grande. E con lo stesso spirito saluto Virginia. Ma buonasera. E ben trovata, scrosciano gli applausi continui per la giornalista faziosa Capri Grubi. Ben trovati, incredibile, buonasera. Non si fermano più, la folla è Io mi sento stranamente questa volta, ma c'è chi accanto a me invece. Vabbè, ma Franci mi scuserà. Dicevo sempre perché lui non sente, che io presento Viola. Eccomi. Maestra e professoressa docente. Ciao a tutti. Tu ti senti, Viola? Anche no, io non ti voglio dare questa notizia, questo trauma così brutta, questo va bene, trauma va bene, così, cominciamo però veramente, veramente bene. E quindi saluto Franci, che vediamo se si sente almeno lui. Cioè, ciao a tutti, mi sentite? Noi grande! Sì. E quindi inconsapevole Franci di quello che viene detto alle sue spalle, continua questa puntata perché noi lo sentiamo. Sono astratto e come la matematica. L'importante è questo, secondo me, secondo voi. Così io come mi sento. Calma. No, ma ce l'hai la cuffia? Non ci sentiamo oggi, ragazzi. Come mai? Mi sento bassa. Puzza di colpo di stato questa cosa. Dov'è Guido? Vabbè, comunque sarà stato Iron Man pure oggi, no? Ma dovrei aver alzato il microfono, sì, insomma il volume a cannone Man. Per tutti quanti, quindi probabilmente vi sentirete peggio nella rubrica infatti, problemi non lo tecnici so. Ho paura. Comunque invece di fare rabarbaro riguardante quello che va male, esaltiamo quello che va bene. Vogliamo dire a tutti subito, Gabri, Grubi, dove siamo, chi siamo e come possono interagire con noi, prego. Ma certo, i nostri canali oramai tutti li conoscete, ma noi piace ripetere perché ripetita Juvent. Franci, ma veramente stai facendo? Era un brocardo. Scusa, prego. Salutiamo. Era un brocardo, come Angie ecco, si sottolineava. E, siamo alla puntata 50, ci state ascoltando in diretta ovviamente su sito del Forte Prenestino, la pagina di Radio Forte, e potete poi successivamente riascoltare il podcast nella medesima pagina, quindi collegatevi sul sito del Forte Prenestino /Radioforte, trovate tutta una sequela di puntate fino appunto ad arrivare a quella odierna che è la 50 numero tondo. Wow. Ciao ga, scusami se ti disturbo, volevo chiederti una gentilezza. Sì, c'è la trasmissione, ma per quale motivo un invio link? E ci stiamo, ci stiamo pensando, Robby. Grande, ciao, salutiamo Dente Marcio. Ciao. Che ci segue sempre, ci ha mandato subito il messaggio. Lo stava facendo proprio mentre questo è quando il gli amici si innervosiscono. Dico, ma se c'è la puntata, ma perché non mi spammi il c'è un hype contenuti? Totale, prego, finisca. E poi c'è il più diciamo usato dei nostri canali, che è senz'altro quello di Telegram, e quindi iscrivetevi, sono sempre più numerosi i nostri iscritti. Telebrom. Anzi, oggi aggiungerei, dovreste essere più partecipi del solito su Telegram, poi vi spiegheremo perché. Ah sì, oggi veramente ne abbiamo di cotte e di crude, e quindi se ci seguite sul canale potete anche essere agevolati nell'ascolto, nella fruizione di questa puntata. Se non avete Telegram, scaricatelo e digitate 100 celle Avengers. E voilà, troverete quindi la stanza. Un applauso, scusate, perché sembra vuota. Questa cosa sta sfuggendo di mano. La trasmissione sembra vuota. Senza gli applausi, vabbè, dopo l'inizio Floris, comunque diciamo a tutti, all'Italia, al mondo, che non abbiamo il tema, ma che questo è per noi in realtà, cioè, quasi di stimolo, anche perché siamo molto molto, come si dice, cerimoniosi, quindi questo sì. 50 special che ci festeggiamo oggi con la puntata appunto 50, spoilerato, grazie per aver sottolineato, lo esprimiamo con il nostro inutile, diciamo, celebrarci. E come celebrare meglio che con un primo pezzo così sbarazzino? Lui lo sta odiando molto. Che io, sì, è per questo che l'ho spoilerato, così tutti hanno già cambiato, diciamo, radio web e non stanno più su Radio Forte 100 Celle Avengers, dove ascoltiamo 50 special. Vai. Girano in centro, sfiorando i 90. Rosse di fuoco, comincia la danza. Di frecce con dietro attaccata una targa. Dammi una specie all'estate che avanza. Dammi una vespa e ti porto in vacanza. Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto i piedi. Se hai una vespa special che ti toglie i problemi. Ma quanto è bello. A marce in granate dalla prima alla quarta. Devo fare in fretta, devo andare a una festa. Fammi fare un giro prima sulla mia vespa. Dammi una special, l'estate che avanza. Dammi una vespa e ti porto in vacanza. Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto i piedi. Se hai una vespa special che ti toglie i problemi. Ma quanto è bello andare in giro per i colli bolognesi. Se hai una vespa special che ti toglie i problemi. La scuola non va, ma una vespa una donna non ho. Ho una vespa domenica è già, e una vespa mi porterà. Raga, c'ho una genialata. Questa è mia. Allora, sentite qua. Non dirgli mai che siamo alla puntata numero 50. E la paura di quel computer che si scaricava. No, no, no, no, Iron Man, te prego, dai. Ho sempre sostenuto, non mi fa. No, no, no, oh, aia, mi fai male. Oh. Radio Forte 100 Celle Avengers è di nuovo in diretta dopo questo primo, diciamo, intro. Ma cosa è successo? Ma che hai fatto? Sei bene? Io porto ancora i segni di questa cosa, quindi non mi va di parlarne. C'hai un rivolo di sangue sulla testa. Mamma mia, me ne raccomando. Ma Iron Man, perché l'hai pestata? Comunque io volevo bene a sto ragazzo, vabbè. È permaloso, a lui non gli piacciono queste smacce. Una punta. Ma sapremo conquistare. Un po' pirata, un po' gentile. Sarà che non l'abbiamo salutato neanche stavolta comunque. E salutiamo infatti Iron Man. Non sono merita però. No, veramente. Poi dici che c'è mena. Allora. L'ultima volta lui, per questo fatto che non lo salutavamo mai, si è incazzato, ci ha trasportato nel multiverso e abbiamo pagato le conseguenze tutti. Io ancora sento i Beatles dentro, c'è molto gente bene. Che parla di allora Iron Man, rivediamo il concetto di amicizia comunque. Cioè dobbiamo riparlarne di questa cosa. Amici sì, ma nel modo giusto. Di questo concetto. E quindi che è con i lividi che Virgi prende la parola oggi. Allora, innanzitutto, prima di prendere la parola per me, io prendo la parola per tutti. E volevo dire e annunciare che oggi la puntata speciale numero 50, perché noi non siamo affatto sentimentali e neanche autocelebrativi neanche autocelebrativi o autoreferenziali. Mai. Questa puntata contiene un quiz sulle 50 puntate precedenti. Cosa? C'è chi ha fatto, diciamo, più ha completato di più questa idea del quiz. C'è chi ha fatto, insomma, semplicemente il proprio lavoro. Ma tutti quanti abbiamo svolto queste domande. E alla fine verrà anche proclamato il vincitore del 100 Celles Quiz. Che dici? Detto anche il quizzazzone, l'ho dovuto dire. Il quizzazzone. Devo dire allegria, però. Posso sottolineare questa cosa in qualche modo? Ma assolutamente. Si è rotto tutto. Che c'è il filtro? Un filtro particolare? Non lo so, secondo me si è rotto tutto. Comunque, il cane mi ha mangiato. Era i meglio non sottolineare certe cose, era chiaro. C'è il quizzone, ragazzi. Oggi c'è il quizzone. Tutti svegli, mi raccomando. Ripassate velocemente il podcast. Esatto, andatevi a sentire tutte le 50 puntate precedenti in questi due minuti. In contemporanea, che ascoltate anche quella. Brava. Ma i giovani d'oggi lo fanno. Partecipate tutti, appunto, su Telegram. Poi potete rispondere anche voi. Certo, il vincitore verrà proclamato qui e non avremo né un premio né una penitenza, diciamo, finale. Sì, o comunque mi piacerebbe pensarci. Già abbiamo però un nuovo membro sul canale di Telegram, un nuovo elemento. Perfetto. Mi piace di più la parola membro, elemento. Non era male. Membro. Un elemento. E Marcus, che salutiamo, ringraziamo ancora Marcus, perché ci augura buon 50esimo. E grande poi ci dice: Marcus. Ma non me lo ricordavo così Tony Stark. Così Tony Stark. Vabbè, cioè deve essere stato un problema di T-Nox. Ci siamo persi. Forse per la voce bassa. Sì, diciamo. Comunque Iron Man che tiene alto qua, diciamo, che è il morale. Il morale, un po' anche le redini di tutto. Prego, Virgi. Prego a me. Quindi oggi, proprio per celebrare la puntata numero 50, io mi occuperò di tutte le rubriche che ho fatto fino ad oggi, tranne una. E quindi ho pensato di fare anche un piccolo mashup delle sigle che appunto andremo a parlare. E fa schifo, però l'ho fatto lo stesso. Quindi innanzitutto direi, maestro, sigla. Sigle. A me piace molto questo programma. Ma vedi, dannate, naffa. Madonna, che sintesi. Ottima sintesi. Queste sono le sigle del mio cuore. Bene, allora, a proposito appunto di tutti gli argomenti trattati, oggi andremo a parlare di Stuart Sutcliffe. Introduco, piano piano capirete quanta roba c'è dentro. Mi piacerebbe, anzi, per il futuro, io intanto lo dico qui in diretta perché so che ci ascolta, mi piacerebbe per il futuro una disamina anche del nostro angelo, perché Stuart Sutcliffe nasce artista, quindi che ne so, magari gli pia. Comunque, chissà se lo conosce. Angelo, te stai mandando i compiti, Aia. Esatto, facciamo i compiti. Sempre la prossima volta. Allora, vabbè. Stuart Sutcliffe nasce a Edimburgo il 23 giugno del 1940 ed entra nella vita di John Lennon come artista. Infatti studia arte nella stessa scuola di John, appunto. Andiamo già a partire col quiz, sì. No. Okay, intanto, ma devi stare comunque attento. Ah, è vero, abbiamo dimenticato di fare una cosa, la possiamo fare dopo. C'è una preparazione. Certo, ci avete ragione. Quindi abbiamo già introdotto uno più famosi di Gesù. Allora, affitta un'area per dipingere in uno studio in cui suonavano e provavano i Beatles, e in quel momento però si chiamavano i Quarrymen, e lì diventano amici. E dopo poco tempo Paul lo obbliga a comprare un basso con i suoi soldi e a suonare con loro. Lui dirà sempre che rimpianse di non aver comprato dei pennelli con quei suoi soldi. Per suonare? Per non suonare mai nella vita, e andremo a capire perché. Quindi abbiamo già anche un colpi bassi, perché stiamo parlando del primo bassista dei Beatles, che però era scarso, era proprio scarso, tanto che quando i Beatles si recarono ad Amburgo prima di diventare famosi, lo bullizzavano e lo umiliavano, costringendolo anche a suonare di schiena. Sì, anche i Rolling Stones lo facevano con Brian Jones, e diamo a Cesare quel che è di Cesare, ovviamente. Ma lui ci riusciva? Sì, esatto, esattamente. E appunto, proprio per prendere in considerazione questo suo modo di suonare, abbiamo un contributo in studio. Pensate che numeri che faceva live. Quindi prego, maestro, contributo. Che comunque pure l'altri, non è che... però becca questi spicci. Sì. E ok, mi manca un sottofondo qui. Ehi, che sta succedendo? Era troppo bello per finire lì. Lo volevo risentire, scusate. Esatto, fatto bene. Non avevo capito. E insomma, vabbè, sempre per dare a Cesare quel che è di Cesare, la sua strada vera però non era la musica, ma sicuramente lo era l'arte pittorica. E ad Amburgo, tra gli artisti emergenti che conobbero i Beatles in tour, Stu conobbe nella fotografa Astrid Kircher, che io non so se ho pronunciato bene, ma l'ho buttata lì con nonchalance, la sua anima affine, che oltretutto fu anche fautrice del look dei Beatles, prendendo come ispirazione i capelli di Nureyev. E qua subito con una video dance on the radio, anche la danza c'è in mezzo. E e decise di restare lì ad Amburgo con lei, perché non voleva dedicarsi a nient'altro che non fosse l'arte e appunto la sua anima gemella. Pensiamoci però, se non fosse stato così scarso, oggi Paul non avrebbe fatto un pezzo di storia del basso elettrico, perché è stato costretto poi a suonare il basso lui, perché gli altri due, George e John, si rifiutarono categoricamente. Ma ne avevamo già parlato. Sì, esatto. Ma passiamo alla parte oscura o crime della sua storia. Proprio nel periodo in cui decise di abbandonare il gruppo, Stewart e John ebbero una lite in cui arrivarono alle mani, e dove Stu batté anche la testa, cosa di cui John si sentirà in colpa per tutta la vita. Ma Stu non era comunque nuovo a questo genere di cose, tanto che ebbe la peggio anche in un'altra rissa scoppiata mentre era con i Beatles, stavolta contro alcuni fan. Fatto sta che, dopo un po', iniziò ad accusare dei sintomi che arrivarono addirittura alla cecità temporanea, e dopo poco morì. I medici stabilirono che si trattava di un'emorragia cerebrale dovuta a una formazione cancerosa provocata da una frattura cranica. Frattura cranica provocatagli in una rissa. Ups. Ora, il povero Stu non era di certo un novellino in quelle situazioni, ma ora abbiamo sicuramente più chiaro il senso di colpa di John Lennon. Infatti, se vi capita, andate a guardare le foto che Astrid fece a John quando tornò ad Amburgo appena saputo della morte di Stuart. Sono abbastanza commoventi. Oh, cazzo. Vabbè, sì, Carco Lennon. E niente, questa era la breve storia di un personaggio con una breve storia, ma con una grande influenza. Dopo infatti ascolteremo una chicca, ovvero Love Me Tender, cantata proprio da Stewart, che forse non sapeva suonare il basso come Paul, ma sicuramente sapeva cantare come John. E adesso, prima farei una prova pulsanti, e poi mi occuperei del quizzone numero uno. Che ne pensate? Facciamo una prova con pulsanti tutti insieme, tanto il mio non serve, ma... Ma posso riprovare a sottolineare? Cosa? Magari questa volta va bene, così, è il momento del quiz. Ah, certo, prego. Chissà che non... No, non è vero. No, ci ho provato. No, che è stato? Si è rotto tutto. Senta lei. Arrivo, però, va bene, va bene. Ma che sta succedendo? Ah, scusa, ero io. Niente, è Betta che mi... Iva Zanicchi avrebbe licenziati subito proprio. Con 2-3B. Niente, Betta, tranquilla. Va bene, ci siete per la prova pulsanti? Ci siamo, vai. Prova pulsanti, vai tutti insieme. Tutti insieme. Vado. Funzionano. Sembrerebbero funzionare. Funzionano. Allora, no, ma la tastierina la tastierina è bellissima. No, perché voi non potete vedere, purtroppo. Cosa di arrogante, però. Un po' arrogante, è vero. Allora, il quizzone non conterrà domande sui dinosauri, perché ve le faccio sempre, quindi stavolta sono stata brava. Vado con la domanda numero uno. Ovviamente chi si vuole prenotare ha il proprio pulsante di prenotazione. Voce un attimo impostata. Nella rubrica, siete tutti attenti? Yes. Sì. Nella rubrica All'Epeca abbiamo parlato di uno spettacolo teatrale in cui Gigi Proietti si cimentava nel recitare quasi tutti i personaggi. Qual era il titolo dello spettacolo? Ma... No, non lo so, mi sono prenotata solo per entusiasmo. Non lo sai, non vuoi nemmeno buttare a indovinare. Ma non ci dai le possibilità. Non lo so, Amadeus. No, questa, su questa no, su alcune no, sì. Buca. Non era Amadeus. Va bene, io poi devo segnare. Mi posso prenotare? Sì, certo, maestro. Ah, perché contano pure quelle sbagliate. Ma non era quello. Cioè, Risette Red Room. Grande! Oh! E vince! Incredibile, incredibile. E una ce l'abbiamo. Chissà se qualcuno da casa ha vinto in tutto ciò. Eventualmente segnalatecelo. Sicuramente. Ma andiamo a lasciare il tempo al telefono di squillare e poi rispondiamo noi per non inficiare. Vabbè, scusate. Il telefono di squillare. Domanda numero 2. A proposito di personaggi che per un soffio non sono diventati più famosi di Gesù, qual è il nome del batterista che fu sostituito da Ringo Starr alle porte del loro successo? Ah, cazzo. Prego. Ai ai ai, questa la dovremmo sapere. È anche facile per certi versi. Forse ma... Martin. No. No. Ricky Martin. Nemmeno. Wittgenstein. Non ce l'avete. Qua siamo veramente... Non è, cioè, David Lombardo. Ci odia. La Virgin ci odia. Va bene. Il nome era Pete Best. Pino the Best. State facendo tutti finta di sapere chi però, fosse. Però no, senza le possibilità, Pietro, le scelte è dura, devo dire. Pietro, cioè, il migliore. Dopo ci Pietro sono, meglio. Dopo ci sono con le scelte, le ho fatte con e senza flop, scelte. Cioè, come fate scena muta se facessi così? Perché io sono in svantaggio, perché io ho 5 domande e voi ce ne avete una e quindi io perderò sicuramente. Poi abbiamo la domanda numero 3. Quale altro strumento suonava John Entwistle, bassista e compositore degli Who? Prego. La chitarra. No. Aspetta, battista. Vabbè dai, se non è zuppa è pan bagnato, su. Nemmeno. Batteria. Pianoforte. Non ha azzeccato nessuno. Tutti. Il kazoo. Il triangolo. Il ukulele. Il corno francese. Vabbè, ma pure Dio. Ho capito. Il corno francese. Cioè, io veramente, se non mi arrabbio oggi. Allora, non diciamo più. Anche l'arpa celtica. Nessuno appena aperto il corno. Ci ha suonato negli Who col corno francese. Se no, non lo dicevo. Ma la ora sto avendo più chiara la visione di quanto ascoltano quello che dico. Bene, bene, bene. Domanda numero 4. Non c'è video dance senza danza classica. Ditemi il nome dell'accademia di danza russa più famosa al mondo. Opzioni. Cala. Oddio, questa la sapevo. A. Nikonova. B. Zakharova. C. Vaganova. D. Pavlova. Vai. Vaganova. Grande Betta. Questa la sapevo. Ce l'ha. Siamo per arrivare all'ultima domanda. Uno dei criminali trattati in CSI 100 celle si vestiva da clown. Il vero nome era John Wayne Gacy. Sì. Ma il nome d'arte qual era? Opzioni. Ah, senza opzioni, vuoi un punto in più per questo? No. Va bene. Air clown. Sentiamo le opzioni. No, vai, vai, se la sai io. Infatti. Era Pennywise. No, Pennywise è quello finto. No, questo è quello vero. Grazie. Pensa, lo volevo mettere tra le opzioni, poi ho detto no, te pare, poi gli faccio sembrare che sono scemi. Te pare che qualcuno dice Pennywise. Lo scemo che dice Pennywise c'è sempre. Comunque. No, era Tata Diovata. Allora, opzioni. A. Patch. B. Bozo. C. Jojo. Patch. D. Grock. Patch. Chi ha Patch? Per nota viola? No. No. Allora io scelgo la D. Vai. Scusa. No, vai. No, non mi sono prenotata. A prenotazioni, per favore. E allora, Bozzo. Bozzo, grande betta in vantaggio. Grande betta in vantaggio. Chiudiamo questa prima parte di Quizzazzone con Betta a 2 punti, il maestro Suano a 1 punto, tutti gli altri a 0. Quizzazzone è bellissimo. Quizzazzone, no, zozzone. Quizzazzone è bellissimo. Pensaci. Va bene. E niente, abbiamo finito questa prima parte di Quizzazzone. Ci rimetteremo agli altri, ovviamente, quiz che avremo nel corso della puntata. E nel frattempo possiamo mandare Love Me Tender, cantata da Stuart Sutcliffe. Boni, ma aspettate che ce n'ho una. Arowana Avenger, sono su Radio Forte. 50 di questi momenti. No, no, Centocelle Avengers su Radio Forte. Madonna, ricambiato di tutto. Ma che hai fatto? Iron Man, c'ha le mani pesanti. Mai contento, veramente. Sta mano può essere Iron o può essere... Mi serve un attimino per riprendermi. Quindi direi che a questo punto possiamo mandare la sigla. Il mio pinguino di ceramica nello studio guarda sempre verso Radio Forte. Centocelle Avengers è una rubrica dotta che si chiama Nordland. Come l'ha chiamato? Nerd, nerd, nerd! Nerd, nerd, nerd! su 100 c'è la meglio. Sta iniziando allora. Lo so. Aspetta, aspetta. Volume 1. Hey, la piccoli nerd. Stavo aspettando l'inizio per fare il title drop come guardiani. Con la puntata 50 ritorniamo alla puntata 1, come dei moderni Benjamin Button, cioè da dove nasce il Nord? Quando questa trasmissione è diventata in diretta, da che veniva realizzata solo post prodotta, hanno cominciato a spuntare rubriche come funghi cordyceps sugli zombie. In quel periodo mi capitò di vedere un film di animazione che si chiamava A Silent Voice, o La forma della voce, che parlava della storia di una liceale giapponese in preda alle difficoltà causate dalla propria disabilità. Quello che mi colpì della storia fu un piccolo dettaglio. La colonna sonora aveva un suono molto particolare, quasi ovattato, e mi chiesi come fosse stata realizzata. Lì scoprii che l'autore aveva voluto dare allo spettatore l'idea di come potesse sentire la musica una persona sorda tramite un impianto cocleare, registrando le musiche del film dall'interno del piano, di modo da far sentire tutti i rumori interni causati dai martelletti. Lo trovai geniale e lì mi venne l'idea del Nord. Nord del Nerd. Il Mordor del Nerd. Ho fatto la macchia. Non essendo una musicista, mi risulta difficile pensare come potessi portare un contributo in una trasmissione che parla principalmente di musica. Ti butti sempre giù. Sì, lo so, però sono ancora pippa. E quel giorno pensai, perché non realizzare una rubrica... La gonfiata delle botte, vabbè, scusate. Sì, esatto. Capito, oggi è mai una gioia. Ah, era un mani il rompiscatole. È bipolare. Esatto. È po' esatto, mi pare più il rompibette. No, dicevo, in quel momento ho pensato, perché non realizzare una rubrica di consigli nerd, che è la cosa che so fare meglio dopo la yo-yo risottata, che va a scovare le curiosità più bizzarre della musica che viene usata nei film, nelle serie TV e nelle nerdate varie. E così, ragazzi, è nato il Nord del Nerd come lo conoscete. Tenendo fede a questo, anche oggi non vi lascerò a secco. Come ben sapete, è uscito Guardiani della Galassia 3, che tra l'altro siamo andati a vedere insieme, vero redazione? Yes. Tutti tranne Viola. No. Vabbè, c'è questa c'è sempre questa tradizione. Sempre, sì, infatti. Ormai almeno uno deve essere escluso dalle sere dei cinema, ma non lo facciamo sì, apposta. È obbligato, perché prendiamo sempre 5 biglietti per forza, quindi funziona, non è così. Cattiveria. No. Ah, wow. Volevo però tornare indietro anche qui alla puntata 1. Ricordate l'inizio di Guardiani, il primo? Il best title della storia? Quello lo ricordate? Dove c'era Star-Lord che si infilava in una caverna umida e semisilenziosa in cui si sentivano solo gocciolì e scricchioli, e a un certo punto Star-Lord allunga la mano sul suo Walkman, un Sony tra l'altro, regà, un super marchettone che sarà costato all'azienda penso quanto è il budget per fare la PlayStation 6, e premendo un tasto fa partire una canzone anni 80 e su Lail appare a schermo il titolo Guardiani della Galassia, che è quella che sentite in sottofondo. Quel pezzo, classe 1974, è Come and Get Your Love, dei Redbone. I Redbone erano un gruppo rock nato a Los Angeles con una formazione molto particolare, essendo tutti i membri nativi americani e di discendenza Yaqui, Shoshone messicana. Mi allupi il sottofondo, maestro. Oh. La parola stessa, Redbone, che in sostanza significa mezzo sangue, un po' Harry Potteriana, è un termine Cajun, appartenente all'etnia anche conosciuta come creola della Louisiana francese, New Orleans, ragazzi. La particolarità di questo pezzo sta proprio nelle sonorità un po' Cajun, ma soprattutto in un tipo di suono molto rimbalzante che non so se riuscite a sentire nel sottofondo, ogni tanto lo fa, è un po' strano, va a momenti. Quel suono, a patto che riusciate a sentirlo, è, ragazzi, un sitar elettrico. Wow. Cioè, io non avrei mai pensato che uno strumento del genere avesse la versione elettrica, sinceramente. Già, vero, anch'io lo pensavo. Dov'è? Dove si sente? Guarda, ci stanno vari assoli. Lo senti? Eccolo! Eccolo, è un sitar! Ma un sax finto invece è un sitar, vero? Esatto, elettrico. Ma che figata! Che incontra l'Occidente. George approved. Attaccaci in cavo. E l'elettricità. Tanta roba. Insomma, non si può dire che questo pezzo non abbia influenze da diverse culture. E ora che sapete sia l'origine del nerd che del primo pezzo di Guardiani della Galassia, ragazzi, è l'ora del quiz. Wow! Siete pronti, redazione? Vai. Assolutamente. Allora vado. Vai. Pronti sui dispositivi? Sì. Prima domanda. Me la so persa. Verso dove guarda sempre il mio pinguino di ceramica nello studio? Vai. In realtà no. L'abbiamo prenotato tutti, però. Ah, scusa. Vabbè. Dai, qual è la risposta? Vai, l'hai detto. In realtà sud. Esatto, infatti è un po' una domanda a trabocchetto, perché nel nostro cuore il pinguino, come diceva il buon maestro, punterà sempre a nord. Ma in origine la frase della sigla a cui fa riferimento è presa dal film Misery non deve morire di Stephen King. Nel film la folle Misery, che ha rapito il suo scrittore preferito a The Patient su Netflix, non ti sei inventato niente, e gli spezza le gambe. Non spoilerare. Madonna, che scena quella. Beh, guarda, cioè la cosa iniziale. Una cosa che mi ha traumatizzato. Quando gli spezza le gambe? Sì. Che si ha traumatizzato la mia adolescenza. E quindi gli fa questa cosa per non farlo fuggire, ma si accorge che lui è uscito dalla sua stanza proprio perché trova nello studio il pinguino di ceramica spostato, perché di solito il suo pinguino di ceramica puntava sempre a sud. Mamma mia, mi vengono i brividi solo a ricordarla questa scena. Paura. Vabbè, io glielo darei il punto. Io l'ho segnato, anche se vabbè. Fammolo vince, dai. Come distruggere una Ferrari perché hai i freni rotti. Ancora me la ricordo quella dannata frase della tizia. No, Dio santo, quel film era terrificante. Grande Stephen King. Scusa, vabbè, che quando prossima parli, fra, ti suona la tastiera. Così, sì. Poi in un'altra puntata del Northern Nerd vi attacco il pippone su Stephen King. Woo! Comunque, seconda domanda. Perché alla fine della sigla del Nord del Nerd c'è il venditore nazionale che dice Stella che cammini? Questo me lo sono sempre chiesto. Chi ha prenotato? Io. Vai. Ma a intuizione vado. Eh sì. A Stella. Oddio. Polare, a Nord. Io avevo pensato a Stella Polare. Esatto, c'è un punto. In realtà per molto tempo me lo sono chiesto anch'io e a un certo punto l'ho chiesto. Sarò tutto? Non lo so. Strano, non capito mai. Per molto tempo me lo sono chiesto anch'io, poi a un certo punto l'ho chiesto al maestro che mi ha detto che effettivamente la risposta sta nel modo in cui si può trovare il nerd, no, il nord più che altro. Il nerd ovunque. Il nerd sta dovunque. Però il nord lo potete trovare con un metodo che voi lupi di mare o più probabilmente appassionati di cani il guerriero sicuramente conoscete, cioè cercare la stella polare. E yes, di qui yes. Il passo a venditti era un attimo. Proprio... Non intuitivo. Forzato. Bravo, ar. Maestro, ar. Ci sono altri segreti della sigla del nord che io non so, ma che tu magari... No, vabbè, il fatto del sud, già l'hai detto, era soltanto per indicare la tua mania di essere precisa, anche se non spezzi le gambe, però... Iron Man sì, però. In effetti l'autore non se lo ricordava che era sud, poi quando si è trovato con sto sud ha detto la tengo uguale. E gli hanno spezzato le gambe. E gli hanno spezzato le gambe, sì. Mi sembra giusto. Beh, a questo punto vorrei prendere un ultimo momento della rubrica, perché ragazzi è la puntata 50, io lo so che Iron Man odia queste cose cringe, ma è un piccolo traguardo per noi, spero di non essere picchiata di nuovo per questo. Quindi sì. Permettetemi di fare il momentino cringe e ringraziare Daniele, il maestro qui, perché senza di lui non esisterebbe questo programma e questa bella redazione. Hai dato a tutti noi l'opportunità di fare una cosa molto bella tutti insieme, che altrimenti non avremmo mai potuto fare. E personalmente ti sono molto grata per l'opportunità di poter stare in radio, di sbagliare i sottofondi al mixer e di imparare un sacco di cose nuove. Mi stai dando troppa soddisfazione. Grazie per tutto il pesce. Annuisce. Sei in carta pecorito a cuoricino. Se n'è andato. Dai ragazzi, allora vi lascio quindi a fine rubrica con il pezzo di cui vi parlavo, anche se l'avete sentito fino adesso, quindi non so se ha tanto senso. Però lo vogliamo lanciare? A rilanciamolo. Dai, poi sfumiamo. Redbone, Come and Get Your Love. Hey. sotto c'è le Avengers, e sempre insieme a te, 50 puntatoni, e l'avventura... No. Radio Forte, Centocelle sì. Avengers, riprendiamo in voce, in diretta, sempre alle 17.41 di questo sabato 27 maggio. E grazie Iron Man per le belle parole. E continuiamo con questo, diciamo, questa kermesse in cui festeggiamo la 50ª puntata di Centocelle Avengers. Ci dicono che è un po' bipolare comunque Iron Man, scrivono nel frattempo nel canale, perché non si sa, un po' ti incoraggia, un po' poi ti pesta, insomma, così. Lo so, un po' bastone e carota. Conosce solo questo linguaggio, poverino, lo amiamo per questo. Perché non gli piacciono le cose troppo emotive, in realtà. Capito, poi il resto sì, va si imbarazza, cioè non sa gestire, non sa solo il meglio da noi. Come reagire, capito? È vero, se posso spezzare una lancia a favore del mio amico che mi ha gonfiato poc'anzi, sì, è un po' il suo modo di esprimere l'amore per Centocelle Avengers. Quest'oggi quindi riprendo il discorso che riguarda le parole sono importanti, amici, quindi c'è una rubrica che tratta appunto delle parole, non le parole a caso, le parole delle canzone, il plurale di canzoni è canzone. Non so se lo sapevate, io tutte le volte dico le parole delle canzone e voi non mi correggete, perché lo sapete, vero? Che tipo le canzoni... mano, Ma è partito già il quiz? No, le unghie. Questa l'ho risposta da solo. Comunque, aspettando Mogol, una sigla e ascoltiamo la sigla. Dammi tre parole, parole d'amore. Come parla? Scrivo un testo. Scendo tu dal bar, sembro tu da ga. Ho speso due campa su una ska. Come parla? Ma che bella canzone. Le parole sono importanti. Potranno mai le mie parole. Parola ancora. Mi hanno censurato. Questa non è una radio libera. Non è una radio libera. Stai calmo, Guido. Va bene. Purtroppo, durante l'interruzione abbiamo ricevuto una telefonata importante. Capita purtroppo di questi tempi con questo governo, a tutte le trasmissioni, un po' delle reti, sia private che pubbliche. Si è sbagliato! A un certo punto, oddio, non possiamo spoilerare o divulgare contenuti che purtroppo erano nella rubrica Aspettando Mogol. Quindi io chiedo scusa la a Guido, ha colpito che mi aveva aiutato. Mi hanno censurato, mamma mia, lo sto dicendo, ci hanno censurato effettivamente, Guido. La nostra rubrica la faremo la prossima volta. Quest'oggi, tuttavia, col solito gancio all'attualità incredibile di Centocelle Avengers, che comunque sì, parla dei cazzi propri, ma in realtà rimane collegato, incollato alla realtà del Forte Prenestino, dentro al quale svolge la sua attività. E quindi quest'oggi che cosa diciamo? Che siamo all'interno di una quattro giorni dedicata alla gentrificazione. Dibattiti, musica e quant'altro in questa kermesse di appunto workshop, all'interno dei quali finalmente potremmo capire il bandolo della matassola, perché è un po' che Forte fa iniziative su questa cosa, quindi probabilmente finalmente sapremo. E quindi regà, pare che questa quattro giorni sarà tutta in inglese. Quindi il momento in cui ti stanno per rivelare il segreto della vita, il significato della vita, te lo dicono in inglese e il problema è... Il problema resta. Il problema è tradurre, ragazzi. Vabbè, perché poi basta tradurre e tutto va in porto. Ma così diventa una cosa poco fruibile. Però appunto. In ogni caso la piazza è piena, quindi la insomma è piena. Siete tutti invitati a partecipare. Si sta svolgendo ancora da stamattina. Brava, grazie, ti ringrazio per il gancio. Proprio perché il forte gremito tutto di stranieri ci riporta. ci riporta in una, in una qualche maniera a, alla dimensione de, di coloro che stanno dietro le quinte di questi meravigliosi eventi, cioè i tecnici, coloro che si chiamano anche fonici, che si lamentano, che riportano dei traumi, poi li riportano a galla, poi li dimenticano, poi in una trasmissione radio fanno la loro rubrica che si chiama Traumi Fonici e ha una sigla. Sei fregato. Che cazzo state dicendo? Andiamo! Sono il vostro fonico! Siamo nella valle, bello. Ci sono un sacco di fonici qua. Oh, e quest'oggi è anche con un certo orgoglio che parliamo del, dell'over engineering necessario per svolgere una corretta traduzione dall'italiano all'inglese e dall'inglese all'italiano. In tempo reale. In tempo reale. Ora, il problema è che questo ci riporta in una situazione in cui diciamo questa cosa ha un'importanza capitale. Qual è questo, questa situazione, qual è questo luogo soprattutto? Amici di Maria De Filippi. Wow. Amici di Maria De Filippi. Sono amici. Negli anni le squadre sono state capitanate anche da personaggi provenienti dall'estero, vediamo sempre il solito Ricky Martin, ma anche altri di lingua inglese, anche se Ricky Martin poteva parlare anche quasi italiano, bello yellow, però c'era questa prescia di tradurli. E così come la telefonata, diciamo, queste operazioni che si svolgono all'interno diciamo del televisivo, ma che comunque comportano di un collegamento tra l'interno e l'esterno con una traduzione, sono delle cose che vengono vissute come delle operazioni a cuore aperto. L'ho già detto altre volte, su questo clima colpevolista in cui si trovano poi diciamo immersi i fonici, in cui te fondamentalmente per far fare una telefonata da ragazzino di Amici di Maria che sta chiuso nella casetta alla madre che non vede da sei mesi e che quindi c'è un certo pathos, tutto questo che non lo vogliamo televisionizzare, lo vogliamo spettacolarizzare come The Truman Show, e tu sei quello che hai visto The Truman Show che ti dicono alza la tempesta, abbassa, cioè tu sei quello, e quindi in questo momento tu c'hai un countdown in cui hai collegato il tuo mixer al telefono, il telefono alla signora, l'autore ha parlato con la signora, adesso le facciamo parlare con sua figlia, conti fino a 5, la signora conta fino a 5 e questo conteggio è come diciamo un, non lo so, un countdown della vita, perché se alla fine di quel 5 la signora fa pronto e per qualche motivo non viene ascoltata dalla figlia, non gli risponde, non fanno caramba che sorpresa, il fonico fa una brutta fine. Tu hai finito. Ora tutto questo lo so che è stato lungo da raccontare, non è quello che succede qui, dove però abbiamo comunque la questione traduzioni, quindi infatti facendo non uso, capivo il collegamento. No, lo so, lo capisco, perché cioè, ricordiamo che tu hai lavorato da Maria De Filippi, la telefonata e la traduzione sono un po' i due spauracchi. Ora mi sono più dilungato sulla telefonata, in realtà qui abbiamo più che altro la traduzione, c'era anche la telefonata collegamento, ma soprattutto appunto abbiamo fatto utilizzo di Jizzy. Stiamo anche togliendo adesso noi con questa trasmissione banda al nostro Jizzy di sala. Bene. Dove si svolgono le traduzioni, ci sono due gagliarde traduttrici che stanno da ore a tradurre dall'italiano all'inglese, all'inglese all'italiano, e tutto questo può essere ascoltato entrando appunto ma tutto questo insomma è stato un bordello veramente epico che non lo so, è un inedito al forte, quindi comunque un applauso ai tecnici che hanno aiutato a fare questa cosa che fino adesso ha funzionato, da adesso più o meno dovrebbe essere in discesa, perché poi ci sarà il reg e quindi finirà tutto tutto bene, vero? Vero? Ditemi di sì per favore. Ma sì, ma cioè, è stato già un successo. Assolutamente. Okay, grazie. Sempre giù. Mamma mia, grazie, veramente, veramente grazie. E direi che a questo punto il trauma fonico è stato abbastanza, diciamo, illustrato. Trauma fonico in diretta. Potrei passare la linea così a freddo a... Non c'è nessun pezzo di mezzo? Se volete, cioè, no, io ho comunque tanto oggi ho sbarvolato da tutti i punti di vista, quindi a questo punto mettendo questa sigla che teniamo solo così come sottofondo, questa qual è la sigla di Centocelle Amarcord che mi permette di mettere questo pezzo, che è un pezzo che comunque andiamo a ascoltare e che riporta sempre ai nostri saggi, questa è la rubrica dei saggi di musica che non ti ricordavi di aver fatto un'estate fa. E comunque ascoltiamo Julie che canta Dream a Little Dream, così, The Botto senza senso. Wow. Ricordati di me. Sunshine and E allora 1, 2, 3, 4, 50 puntate. 1, 2, 3, 4, 10, 50 puntate. Allora 1, 2, 3, 4, 1000, 20, 50 puntate. 1, 2, 3, 4, no, aiuto, no, no, ah, ah, no, ah. ¿Estás escuchando Radio Fuerte, mijito? Cento celle avenge. Oh ma! Iron Man, riportala subito qui. Ti ho detto riportala qui, deve fare la rubrica, per favore, non fare il permaloso. Ma le ossa sono tornata, ormai. Sono tornata, sì, mi ha colpito con il laser, ma non mi ha preso, tiè! Che paura. Iron Man. Sì, bene, sì, sì, tutto a posto, sono tornata tra voi. Ti sei difesa bene. Mi sento, sì. È stata una colluttazione, ma ho vinto, incredibile, contro Iron Man. E allora passiamo a quest'altra rubrica. Appunto oggi parliamo di puntate, di come sono nate le rubriche, di queste mille rubriche che riempiono il palinsesto di 100 Celle Avengers. E a me appunto quindi tocca parlarvi della rubrica che ho creato, e che io vi ho creato. E anche se in effetti c'era l'imbarazzo della scelta, perché... potevo scegliere, sì, l'imbarazzo della scelta fra due che mi competono, sono Cigni di Balacà e Brocardi. E a dire il vero, Cigni era preferibile per la sigla, perché sì, nel tempo dotata di una sigla ricca di contenuti e se ne poteva parlare tanto, ma io ho scelto di parlare di Brocardi invece, l'altra rubrica, perché comunque è una rubrica più giovane, nata da poco, e poi perché Brocardi in fondo è uno stato d'animo, cioè per chi l'ha seguita, insomma, tutti questi nelle ultime puntate sa di cosa stiamo parlando. Assolutamente, ecco. Esatto, è vita condensata in motti, in frasi celebri, proverbi, appunto in Brocardi, che si tramandano per un motivo, perché hanno qualcosa in più di altri proverbi o altre frasi dette così a caso, e questo qualcosa in più è proprio la verità della storia, insomma, ecco. E quindi senza indugi ti chiederei di mandare la sigla di Brocardi. Questa mattina mi sono svegliata e ho trovato la sorpresa. Mio padre ha portato a casa i Cardi. Fanno parte della famiglia dei carciofi. Allora, ho deciso di preparare Cardi in pastella. Ma prima di tutto dobbiamo andare a pulire i nostri Cardi. Ci piace Brocardi perché appunto si presta a questa, diciamo, come dire, associazione di idee e di pensieri, perché rimanda ai Cardi, ecco, che come sentivamo appunto dalla nostra amica chef direttamente da San Giovanni in Fiore, probabilmente sono anche delle ottime un'ottima pietanza, un'ottima pietanza, e infatti sì. È perfetto i cugini dei Cardi. Scusa. No, diceva, è perfetto Brocardi perché sostituisce la rubrica di cucina di cui, esatto, non dovremo mai parlare. Dotarci. O comunque, pensiamoci. Dopo la posta del cuore. Io da mo' che ce l'ho st'idea. Però hai ragione, guarda, in caso faremo questo mix un po'. Vabbè, ci penseremo. Ma intanto dicevamo che siamo già alla 50ª puntata, caro Iron, che ti piaccia o meno. E quindi che possiamo fare se non riflessioni sul tempo? Come se così, riflessioni sul tempo come se non ci fosse un domani. E a proposito di Brocardi, che dire? E la prima cosa che mi viene da pensare è tempus fugit, ma insomma è anche un po' banale, perché qual è invece la riflessione proprio più profonda sul tempo che conoscete? Così, detta appunto con motto un brocardo. Non lo sapete? Tempo dei padroni. No, guardiamo. Tempo è un costrutto sociale. Dovete guardare la latinità, ragazzi. Il mio quiz è già partito, tra parentesi. Sì? Tempus fugit, abbiamo detto che è banale, quindi la togliamo di mezzo. Carpe diem. Brava Virgi! Grandi, e vince tutto. Il tuttone, il quizzettone. E sì, anche detto ogni lasciata è persa. Ma è proprio così che si esprime Orazio con il suo appunto omnia relicta amissa sunt, ogni lasciata è persa, e quindi appunto carpe diem, cogli l'attimo. Questa locuzione latina che è tratta dalle odi del poeta latino Orazio, che è letteralmente è traducibile in afferra il giorno, ma appunto è più nota la traduzione con cogli l'attimo. E ugualmente appunto efficace come traduzione perché trasmette il concetto che le parole latine volevano appunto esprimere. E carpe diem quam minimum credula postero, ecco, per dirla completa. Quindi cogli l'attimo confidando il meno possibile nel domani. E insomma è un invito anche un po' amaro, ma un invito a godere ogni giorno dei beni offerti dalla vita. E esatto, dato che il futuro parte bene, vai, finisce malissimo. Era super pessimista. Era positivo. Sì, ma è un po' così, insomma, una lettura ampia, molto interessante. Io vi do giusto qualche così nota anche un po' critica, ma merita sicuramente un approfondimento, e tutte le odi di Orazio in questo caso. E dato che appunto dicevamo è un invito a godere ogni giorno di questi beni, dato che il futuro, ecco, non è prevedibile, dicevo, e, ma non è da intendersi come un invito alla ricerca del piacere, appunto mero piacere così edonistico, ma un più che altro ad apprezzare ciò che si ha, ad accontentarsi di ciò che si ha. E si tratta quindi non solo di una delle più celebre orazioni della latinità, ma anche di una delle filosofie di vita più influenti della storia. E è una vera filosofia di vita. Infatti da questa filosofia di vita è diventata un vero e proprio topos letterario, che partendo dalla Grecia antica ha avuto echi fino all'età contemporanea. E io ho trovato, beh, sempre guardando un po' al passato, Alceo, il poeta greco del VIII secolo, che in due dei suoi frammenti invita con queste parole, sentite bene, l'amico Melanippo a godere dei piccoli piaceri, perché dopo la morte non ne avrà più la possibilità. E quindi che gli dice? Gli dice: bevi, Melanippo, fammi compagnia, beviti sto calice. Già quando passerai il vorticoso Acheronte, questa luce pura del sole, la vedrai? No, non insistere sulle grandi cose, beviamo. Le lucerne, perché attendiamo? Il giorno è solo un attimo. Quindi un invito, in questo caso, veramente a bere e a godere della vita, in effetti. Dai. Non lo so, lo dice al CEO, io bevi lo faccio mio. Ma Griso. Ma poi abbiamo anche Catullo, che abbiamo già citato in qualche puntata trascorsa, e nel Carme 5 esorta la donna amata a vivere con passione la loro vita, l'abbiamo visto. E vivamus mea lesbia atque amemus, rumoresque senum severiorum omnes unius estimemus assis. Vabbè, è andata un po' male la lettura, ma sapete di cosa parliamo, insomma. Avrà una sua collocazione nel futuro questa parte. Sì, esatto. Le papere. E non si può infine non ricordare la canzone Il trionfo di Bacco e Arianno di Lorenzo de' Medici. Se mio padre appunto mi sta ascoltando, sicuramente insomma, che lui sa molto, sarà orgoglioso, ne avrebbe ben donde, saprebbe dirci certamente qualcosa in più. E in questa appunto trionfo di Bacco e Arianna emergono esattamente gli stessi temi: si celebra la bellezza della giovinezza fugace e si ricorda di essere sempre felici perché il domani è incerto. Quanto è bella giovinezza che si fugge tuttavia, chi vuol esser lieto sia del domani. Bravi, bravissimi, tutti preparati. Oh, vincete tutti al mio quiz. Posso fare l'aggiuntina? Certo. Perché ovviamente a chi è nerd questa cosa ricorda il famoso film di Robert, dove c'è Robin Williams, L'attimo fuggente. E simile a questa c'è una piccola poesia che viene citata lì di Eric, che dice, quoto, aspetta che mi effetto. Però mettolo sulla sigla, è strano. Cogli la rosa quando è il momento, che il tempo, lo sai, vola. E lo stesso fiore che sboccia oggi, domani appassirà. Oh. Betta vuole vincere. È agguerrita. Ma come fa? Mia nonna diceva sempre. No, vero. No, vale bella tutto, questa. Allora. Quella era un'altra cosa. No? E quindi sì, insomma, nel tempo stiamo vedendo che ciascuno ha dato a suo modo, a modo suo, insomma, ha adattato, ecco, l'antico motto oraziano, il quale tra l'altro, quindi il carpe diem di cui abbiamo detto, si presta ad interpretazioni anche un po' equivoche, e qui attenti perché insomma siamo già nella parte del quizzone. Infatti, oltre a essere uno dei brocardi latini più conosciuti, è anche uno dei più fraintesi, ecco, fun fact. Spesso infatti viene intesa come un invito, come dicevamo, a un divertimento spensierato. Alla Maccio Capatonda? Sì, appunto, un po' come Meluppiano, come si chiama quello di sopra, me lo so già scordato, quello di Alceo, Melpignano. Non era Melpignano. Lo so che non era Melpignano, ma non lo ricordo. Aspetta, ora te era lo pure trovo. Simpatico, vive a Giavedere. Melanippo, Melanippo. Esatto, era il caro Melanippo. Ho degli amici Melanippo, che la pensano così ovunque. Bene, leggendo effettivamente le odi da cui è tratto Carpe Diem, capiamo che la frase viene detta da Virgilio in un contesto in cui sta dialogando con la sua amata. Siamo nell'ode undicesima, in particolare è inverno e si sente fischiare il vento furioso. Raccolti nel tepore di una stanza ben riparata, il poeta Virgilio e l'Euconone, ossia la fanciulla dagli ingenui pensieri, si godono il loro momento di intimità. E l'Euconoe, per passare il tempo, l'Euconone, per passare il tempo, si dedica a calcoli astrologici proprio per sapere se vivranno a lungo. E il consiglio dato dal poeta a questo punto è quello di bere e godersi il presente, che è un attimo, esatto. Gabri! No, ma ancora di più, insomma, in realtà c'è anche un po' un senso erotico che alcuni hanno letto, perché appunto, cara amata, insomma, esatto, non stare qui a fare conti, non lo so, calcoli astrologici e matematici per sapere se quanto durerà la tua vita, perché in realtà è assai precaria. E da qui nasce l'espressione celebre, appunto, Carpe Diem. Insomma, sta diventando la pasta del cuore infranto. La roba potrebbe sì, essere vista pure come molestia, comunque. No, ma è anche un po' maschilista. Insomma, ci sono state varie letture. Ho scoperto. Le donne hanno capito tutto il nostro pensiero. Sì, probabilmente Carpe Diem, chissà come lo direbbe una donna, in quale contesto. Virgilio ha scelto di dirlo in questo, invece. Non preoccupate. Va bene, faremo anche la posta del cuore, ricordiamo di infranto. E quindi dicevo che c'è d'altra parte, ecco, un modo di dire anche ambiguo, perché ci lascia, come dicevi pure tu prima, Viola, un po' l'amaro in bocca, cioè quando non sappiamo prendere al volo l'evento, no, rimaniamo un po' male, cioè Carpe Diem, mannaggia, insomma, non mi sto godendo appieno la vita. E all'opposto ci dà euforia quando invece ci sentiamo di cogliere appieno la via. E pare anche un po' egoista e nichilista, oltre a renderci ancora più schiavi del tempo, questo tempo appunto da non sprecare mai. Insomma, ci alimenta anche un po' l'ansia. E quindi il mio quizzone si conclude appunto lanciandovi questa domanda: voi cosa ne pensate? Qual era l'intento, il vero reale intento di Orazio in questo caso? Bere, ecco questo. Mi sembrava chiaro. Credo che sia la risposta più adeguata, quantomeno in questo contesto nostro. E quindi che direi che. Cioè, che non pensi nemmeno al domani, cioè è tutto collegato, capito? Diciamo che qui ed ora è un quiz che ognuno di noi risolverà dentro di sé, ok? Quindi sì, ognuno io potrà mi segno un punto veramente. Comunque, vabbè, ma che abbiamo? Ce lo sentiamo. Ma direi che vince il maestro, segna pure punti perché si è sentito di lanciarsi subito nella risposta. Nel bene, grazie. Nel bere o nel male? Io però mi segno il Carpe Diem. La prossima sarà Gnoti Theauton, conosci te stesso, il prossimo brocardo. E sulla scia, insomma, di questo punteggio che viene ottimamente segnato da Virginia e del tema dei quiz, ci sentiamo questo grande pezzo, un pezzo d'annata, correva l'anno 1988, io avevo un anno e già appunto imparavo che la vita è tutto un quiz. Wow. Quindi bere. C'è una luce blu e in ogni casa che brilla una TV, e tutti intorno seduti a guardare davanti a questo nuovo focolare. Il padre e il figlio dice: senti un po', solo un consiglio è quello che ti do. Tu nella vita comandi fino a quando hai stretto in mano il tuo telecomando. Sì, la vita è tutto qui, e noi sogniamo, fantastichiamo, e con pizze risolviamo i problemi che ci abbiamo. Sì, la vita è tutto qui, grandi occasioni, grandi emozioni, perché con pizze si danno i migliori. Cento celle, 50 Avengers. No, aspetta, no, aspetta, non ho finito. Fammi finire. No. E al grido di picchia Sebino si è scatenato Iron Man. Tutto a posto? Tutto a posto, sì sì, è così, perché oggi è la puntata di andare a piottare, un po' come facevamo quando facevi la sega dei 100 giorni. Oggi abbiamo il mezza piotta Avengers e il mezza piotta Avengers, mentre tutti hanno portato aneddoti, diciamo, storie delle sigle quiz. Io sono l'unico che ha fatto i compiti e quindi si è preparato un argomento vero. Cecchione. E faccio felice oltretutto anche Virginia, perché indovinate un po', questo argomento riguarda Virginia? The Fab Four. Già, sigla. Nel corso della nostra esistenza andiamo alla ricerca di parole che riescano a descrivere adeguatamente le continue perturbazioni dell'ordine e del caos dell'intero tessuto del cosmo. Auspichiamo la conoscenza, la rivelazione, la catarsi. Per questo esiste la filosofia. Ma la filosofia si fonda sulla matematica e solo la matematica può farci intuire la verità dell'universo. Avete fatto altro che scrivere tutti i numeri di 216 cifre tentando di decifrarli, di intonarli. Non è vero? Quel numero non è niente. Non siete voi prescelti. L'ho trovato io. L'ho trovato io. E io solo l'ho capito. Sarò io a vedere Dio. Ma mi sembra un po' fuori del programma, e poi magari non a tutti interessa. Sì, sì, ci interessa. Oh, cari abitatori dell'albergo di Hilbert. Sono tutto orecchi. Virginia, tutto orecchi. Allora, di che cosa parliamo oggi? Ho detto, parliamo dei fantastici Beatles. E in particolare, scusate, oggi vado veramente a braccio. Fantastici quindi... 4, ho capito, Fantastici 4, vabbè. Lo sono. Ups. Oggi andrò veramente a braccio, ragazzi, perché mi sono portato la Bibbia, dove di solito prendo qualche argomento da portare qui in trasmissione. Non mi sono scritto una sega, quindi se mi sentirete parlare tipo Verdone, tipo Marisola, pasta è pronta al dente in 7 minuti, no? Non vi preoccupate. Allora, come si chiama la Bibbia? Diccelo però. La Bibbia si chiama Matematica Rock, storia piace, di musica e numeri, dai Beatles ai Led Zeppelin. Questo è il libro di bellissimo. Paolo Alessandrini. Vabbè, io so fare la marchetta praticamente. Cita però... le fonti. Vabbè, ognuno ha la sua Bibbia, no? È molto bello. E poi, insomma, è l'unico che lo fa. È un libro che si legge... Insomma, è divulgativo, quindi insomma è di come hai detto alla prima. Portata di tutti. Come hai detto alla prima. Portata di potete tutti. Leggerlo anche no, voi, potete anche capirlo. Voi comuni mortali. Mondo proprio. Ecco. Allora, dicevamo appunto, parliamo dei Beatles. In realtà parliamo in particolare di due canzoni dei Beatles, che sono In My Life e The World, entrambe incluse in... Ci picchia in Rubber Soul. Ok, bravissima Luigi. E mi segno un punto. Super, ti vuoi segnare un punto? Mo è fantacitorio qua. Sì, infatti. Va bene. Allora, In My Life, e qui leggo proprio dal testo, insomma, del libro, In My Life è un esempio emblematico di come i testi beatlesiani siano cresciuti rispetto ai primi anni 60. Non è una canzone d'amore, ma è una canzone della memoria, che scava nel passato personale dell'autore. Ma nel passato di quale autore? Nella mia vita, recita il titolo, ma nella vita di chi? Intervistato da Rolling Stone nel 1970, John Lennon affermò di aver scritto musica e parole quasi da solo nella sua casa di Weybridge in Inghilterra e di essere stato aiutato marginalmente da Paul McCartney nella melodia del, del Middle Eight, il passaggio strumentale suonato al pianoforte da George Martin. Ma attenzione, perché 10 anni dopo Lennon confermò questa versione alla rivista Playboy, questa cosa stupenda, vabbè, sottolineando che quella fu la prima volta che scrisse consapevolmente della propria vita. Il collega, tuttavia, ha più volte ricordato che le cose andarono in modo diverso. È strano perché loro erano sempre d'accordo su come hanno creato. Esatto. In un'intervista del 1984 dichiarò di aver scritto tutta la musica di In My Life mentre John si era limitato al testo. Questo dice Paul. Dice, forse John se n'era dimenticato, ma la musica la scrissi io. Ricordo che mi passò le parole come una specie di poesia. Mi appartai per una mezz'oretta e con l'aiuto del mellotron di John buttai giù la melodia. Anche Miles, 1977, riporta la stessa ricostruzione di Paul, specificando che quest'ultimo tornò da John dicendogli: ce l'ho, una bella melodia, direi, che te ne pare? Lennon confermò, bella, e insieme continuarono a sistemare i dettagli della canzone, quindi diciamo che non si sa. Hanno fatto tipo Paul & Mickey l'altra volta. Tipo Paul & Mickey, esatto. Sì. Allora, se In My Life può essere vista, diciamo, come una canzone autobiografica e nostalgica, come un'anticipazione di Penny Lane e Strawberry Fields Forever, il brano The World sembra essere un antisignano di All You Need Is Love. Come quest'ultimo, infatti, è fondamentalmente un testo hippie, fondato sul tema dell'amore universale come panacea di ogni male. E infatti The World is... Non lo so. Scusa, Love. Ah, ok. Lo sapevo. Grazie per i virgi che mi integra. Prego. Ok. Segni un punto. Segnati un punto. Non lo so mai dire. Viva, lo posso fare. Cioè, manco la penalizzazione della FIGC adesso la fa perdere. Vabbè. Il virgi rimonta malissimo. Esatto. Allora, fondata appunto sul tema dell'amore universale come panacea di ogni male. Su questa canzone non vi è mai stata, come per, diciamo, In My Life, una disputa sulla paternità. Paul ha riferito, sempre da fonte Miles, 1997, che The World nacque in un contesto molto psichedelico. Lui e John fumarono della marijuana, scrissero insieme il pezzo e poi decorarono il foglio del testo con disegni vivacemente colorati. Se sia stata una collaborazione paritaria, o se al contrario uno dei due avesse avuto l'idea principale, e fosse stato soltanto aiutato dall'altro, non è mai stato chiarito. Perché non gli piaceva abbastanza e non aveva fatto abbastanza hype nel pubblico come canzone. Esatto. Posso permettermi di dire. In realtà Virgil lo sapeva. Ma certo, io c'ero. Nell'opinione comune comunque si è sempre sospettato che in questa canzone Lennon avesse più pesato di, diciamo, di Paul McCartney. Allora, perché vi ho parlato di questa cosa qui? Perché nel 2018 tre accademici americani, accomunati dalla passione per i Beatles, Mark Glickman, Ryan Song dell'Università di Harvard e Jason Brown della Daily House University, spero di averle pronunciate bene, hanno annunciato di aver affrontato il problema di attribuzione delle due canzoni utilizzando la matematica e la statistica. Wow! Esatto, i due ricercatori hanno realizzato fondamentalmente un algoritmo intelligente in grado di capire se la musica di una qualsiasi canzone firmata da Lennon McCartney è stata in realtà composta dall'uno o dall'altro autore, cioè più dall'uno o più dall'altro. Argomento già affrontato in Più famosi di Gesù, in cui non abbiamo dato nessuna risposta, però. Esatto, qui diciamo la cosa è proprio su queste due canzoni in particolare che loro come hanno fatto. Allora, diciamo che gli elementi che ci servono per capire come hanno affrontato questo problema sono elementi di probabilità e statistica. Diciamo che tutti più o meno conosciamo la legge dei grandi numeri, cioè nel senso che dei grandi numeri. Dei grandi che? Dei grandi. L'ha detto. Sono le botte di Iron Man. È così, eh. Numeri con un M. Cioè, che diciamo che se fondamentalmente facciamo avvenire un evento per 100 volte, che ne so, lanciamo una moneta 100 volte, più o meno sappiamo che statisticamente 50 volte uscirà a testa, 50 volte croce. Questa, 50, questa, 50, che gancio, gancione, ok. Allora, eppure oggi è portata a casa. Eppure oggi ho portato a casa. Dai. Intanto io giro le pagine compulsivamente. Tutto questo per dire che per, diciamo, arrivare a questo studio che hanno fatto questi tre scienziati si utilizza, diciamo, vabbè, ovviamente la statistica non si è fermata alla legge dei grandi numeri, è andata un po' avanti. Soprattutto in questo caso si utilizza quella che è, diciamo, la formula di Bayes, che è una formula che tratta, diciamo, la probabilità condizionata. Che cos'è la probabilità condizionata? È semplicemente quanto c'è probabilità che avvenga un evento condizionato, sapendo che però questo evento è condizionato da un altro evento. Faccio un esempio: se io tiro un dado, so che la probabilità che esca una delle qualsiasi facce è un sesto, ok? Però se il dado è truccato, chiaramente questa probabilità non è più un sesto. Quindi se io so che il dado è truccato, la probabilità che esca, che ne so, due, magari è truccato per far uscire due, è maggiore rispetto alle altre. Questa è la probabilità condizionata, insomma, niente di complicato. Si utilizza questa, diciamo, Bayes ha trovato una formula per calcolare questa probabilità condizionata e la, diciamo, i tre scienziati hanno applicato questa formula nel cercare di determinare se In My Life sia più, diciamo, di Lennon, di McCartney, e la stessa cosa su The World. Che cosa hanno fatto? Hanno preso praticamente, diciamo, aspettate che lo ricercano, tipo una settantina di canzoni, credo, dei Beatles. Dille, esatto. Tutte, non ci sono scritte, tutte hanno scritto solo una settantina. E di queste canzoni hanno praticamente analizzato tutta una serie di aspetti, quindi, che ne so, gli accordi utilizzati. Ovviamente di queste 70 canzoni si sa chi l'ha scritta, cioè si sa se sono di Lennon o di McCartney. Per quindi sbrogliare di chi era lo stile, di chi era più lo stile. Esattamente, esattamente. Oh. Praticamente hanno preso queste 70 canzoni, hanno analizzato tutta una serie di caratteristiche, quindi la melodia della voce, gli accordi, le progressioni, il tempo, tutta una serie di caratteristiche musicali, e le hanno messe a disposizione appunto della formula di Bayes. Perché? Perché hanno calcolato la probabilità, diciamo, analizzando una delle due canzoni, sostanzialmente hanno calcolato la probabilità che, prendendo un pezzo a caso, qualunque pescata dalla canzone, per esempio In My Life, quel pezzo potesse essere più, diciamo, una cosa potenzialmente scritta da Lennon o potenzialmente scritta da... Ma prima di dire chi l'ha scritta, posso indovinare se c'è una risposta? C'è una risposta, ovviamente, alla fine. Caccia di punti. Posso provare a indovinare dopo? Cioè, beh, ti piace vincere facile, però quiz, No, vabbè, se è una cosa che i più grandi esperti, però io ce l'ho un'idea. Il quiz è esattamente quello, esatto. Ah, e allora, raga, gioco quindi, da sola. Quindi, diciamo, conoscete voi. Diciamo i tre termini, diciamo, che determinano appunto questo calcolo della probabilità sono fondamentalmente, diciamo, che, come dicevo prima, la probabilità che un estratto a caso della canzone, che ne so, In My Life, facciamo il caso, sia, diciamo, una canzone scritta da Lennon, quindi andando a confrontare quelle 70 sia una canzone di Lennon. E poi ci sono questa probabilità viene moltiplicata per la probabilità che invece, estraendo a sorte una delle 70 canzoni, questa sia una canzone di Lennon, e il tutto viene diviso in, diciamo, per un'altra probabilità più generica. E questa per quanto riguarda Lennon. Per calcolare invece la probabilità che la canzone invece sia di McCartney, basta fare ovviamente 1 meno la probabilità di Lennon. È come per la moneta, no? Se tu hai il 50% che la esca fuori croce, hai ovviamente 50% che sia invece testa. Se non allora, è una moneta truccata. Se non è una moneta truccata. E allora, quindi, la domanda è: qui arriva il quizzone. In My Life e The World. Attenzione che la domanda può anche essere a pari merito, più uno, più l'altro. Quindi, a chi appartengono? Allora, secondo me The World è Paul e In My Life è non 50-50, ma tutti e due. Ma cioè, Paul nel chi? Senso, più qualcuno, più John. È la tua ultima risposta? Sì. È la tua risposta definitiva? È come accendiamo? È come li sento. Signora Virginia? Per forza. Per 100.000 euro? Deve essere hai così. Risposta definitiva. Signora Virginia? Quindi ripeti un po' la risposta. Risposti un po'. Allora, risposti un po' la risposta. In My Life più John e Paul. E con la collaborazione di Paul che si sente. E mentre The World, Paul. Cioè In My Life, tutte e due o più? Non ho capito. Più John, ma tutte e due. Ok. Allora, diciamo che hai zeccato al 75%, nel senso che voto mi do, che punto mi do. Attenzione, Franci, un responso probabilistico, perché allora The World, sì, per The World l'algoritmo ha sfornato al 98,2% la canzone è stata scritta da Paul McCartney. Dai, su, mettetela. Ma lo stesso risultato è stato dato per In My Life, cioè al 98,2% la canzone è stata scritta da John Lennon. Wow. Ah, da John. Da John Lennon, mentre tu, vabbè, avevi detto un po' più da Lennon. Sì. Ok, no, invece qui è proprio... Non anche se... 2. Anche se, e questo ti va dato meglio, va però osservato per completezza che la seconda versione della ricerca ha ridotto questa percentuale all'81,1. Mm. E vabbè, insomma, la stiamo sempre un po' più spostati verso John. Sì, verso John. Sì, e niente, insomma, come hanno osservato gli scienziati, il catalogo beatlesiano, diciamo, è stato in questo modo sviscerato nei suoi componenti elementari, quindi insomma è stato fatto un lavorone. E poi vabbè, diciamo, quel libro, il testo da cui traggo l'argomento di oggi, vabbè, si va tutto sul machine learning, insomma, roba più da nord del nerd. Quindi ha vinto John Bon Jovi. Quindi lo trascuro. Ha vinto John Bon Jovi. In my life. In my life era di John, esatto. Bon Jovi. È sempre di John Bon Jovi. Calcola che il nord del nerd lo sta facendo per lavoro questa cosa, solo che invece di analizzarlo a posteriori, noi stiamo creando uno strumento per vedere questa percentuale a priori, facendo scrivere gli autori tutti insieme e vedendo chi ha scritto più di chi. Voi siete il male. Si chiama, e finisce la musica su questo. È finito il luppone. L'azienda. E niente, poi a proposito di musica, vi lascio con il caro vecchio Alice Cooper. Grandissimo. Ma che c'entrava? Ma mo ci stavano bene i Beatles, Alice Cooper. Lo so, però. Perdi un punto. Sto mangiando, scusatemi. Il pezzo è No More Mr. Nice Guy, Alice Cooper. Quante ne abbiamo passate, quante rubriche chiacchierate, ascoltate, non capite, percepite, partorite, sono tutte le mie preferite. Una mostra. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Raga, c'ho una... Mi sto leccando ancora le ferite. Stai bene, Viola? Sono un po' provata, ragazzi. Stavo però... picchiando Virginia. Io gridavo al capolavoro, ma... Non vedete il mio collare? No. Collare non ortopedico. Non è per moda, ecco, diciamo. Allora, comunque, do perdono perché in fondo, per amore, solo per amore. Allora... Inizio col dire che allora la mia rubrica, parliamo un po', cioè giusto un accenno così. Allora, questa rubrica nasce, diciamo, dalla passione per questa forma alta di scrittura. E dici il titolo? Il titolo, ah, rubrica. Certo, ma vabbè, perché capito, io do tutto per scontato. Sono ancora le botte. Sì, infatti, sono un po' rintronata. Allora, la mia bellissima rubrica Music and Poetry. Che ha una sigla, no? Che ha una sigla, sì. Sigla! Lasciatemi leggere. Sentire questa poesia. Vorrei. E non so leggere. Ho voglia di sentire questa poesia. Riavvolgo il nastro. Riavvolgo il mio nastro. Anche se non sono forte. Anche se oggi ci sono, non è post prodotta, come potete immaginare, anche dalla mia voce più gioiosa. E quindi stavo dicendo, questa rubrica parte, la mia rubrica Music and Poetry nasce dalla passione appunto per questa forma alta di scrittura e di poter esprimere attraverso appunto questa scrittura le emozioni più profonde dell'animo umano. È una forma di letteratura che diciamo mischia insieme al sé più profondo, appunto si intreccia anche con il pensiero appunto umano, che molto spesso, quasi sempre e si rifà comunque al pensiero filosofico. E poi io sono una che pensa tanto, quindi a posto. E lo stesso appunto vale per la musica, non solo quindi a livello, diciamo, di melodia, che è un accompagnamento, ma anche appunto proprio dal punto di vista di questa scrittura. E parto anche con una domanda che boh, di guizzone, va? L'ho preparata prima. Allora, qual è l'emozione che mi accompagna quando parlo della mia rubrica? La nostalgia. No. La malinconia. No, raga. No. Vabbè, la cosa allegra. Il rancore. Ma no, perché? Cioè, io questo vi ispiro. I bambini. No. L'amore. Grande Franci. Ah, vabbè. Ma non è il sentimento. Sì. Qualcuno l'avrebbe fatto di detto. Sensazioni delicate, l'amore, di piccole scintille allo stomaco. Ma come non è? Lo so, raga, ma voi direte, ma come, l'amore, che tu sei sempre triste, sempre qua, sempre là, facciamo tanti discorsi anche sulla tanto chiacchierata e discussa rubrica del cuore, che diciamo mi sono sentita un po' ancora, sono ancora un po' repressa, diciamo, peggio delle mazzate di Iron Man. Noi siamo con te comunque. E mi sto chiedendo ancora il perché di queste parole, di questi aggettivi che avete dato alla mia rubrica, vabbè. Comunque, oggi invece, quindi mi sono impegnata e parlerò proprio dell'amore, proprio dell'amore così, nel senso più, ecco, più ampio del termine. E, tanto qua chiamano le persone. Chi c'è? Ma sì, allora, sì. E, lo farò attraverso una poetessa di nome Mariangela Gualtieri, che è nata a Cesena nel 1951, è una poetessa e scrittrice italiana. E mi ha colpito molto, l'ho scoperta non da tantissimo e ho letto varie poesie, sono molto molto belle. Oggi porto la poesia appunto che porterò, si intitola Sii dolce con me, e parto prima con l'introduzione. Allora, Sii dolce con me è davvero una grande bella poesia d'amore E la poetessa si rivolge subito alla vita personificata, viene voglia subito di capire con chi la poetessa vuole identificare la vita. E sto riprendendo le parole appunto di questo scrittore Biagio Carruba, e penso, lui dice: penso che si potrebbe identificare o con Afrodite, dea dell'amore e della bellezza della mitologia greca, o con Giunone della mitologia romana, o con Venere del libro De Rerum Natura di Lucrezio, oppure potrebbe essere la Madonna, madre di Dio, della religione cattolica cristiana, o con la natura della filosofia rinascimentale, o con la ragione degli illuministi, oppure potrebbe essere l'idea di Hegel, cioè con l'autocoscienza che si trasforma dapprima in coscienza e termina con la filosofia. Oppure si potrebbe identificare con la scienza dell'astronomia che ha scoperto e svelato l'ultima teoria dell'origine della vita sulla Terra. Certo, è una bella scelta da fare, ma la poesia non dà nessun elemento di certezza su chi sia questa vita personificata. L'invocazione iniziale mi fa ricordare l'epitaffio latino «Sit tibi terra levis», che la terra ti sia leggera. Anche l'invito alla vita mi ha fatto ricordare alcuni versi di una poesia di Vincenzo Cardarelli, alla morte. Morte, non mi ghermire, ma da lontano annunciati, da amica mi prendi, come l'estrema delle mie abitudini. Ma l'invocazione più vicina e simile è quella alla poesia di Giorgio Caproni, Preghiera, che termina con questi versi. Anima mia, sii brava e va in cerca di lei. Credo invece che la poetessa voglia semplicemente riferirsi alla vita come una madre natura, amorosa e soccorrevole. Ed ecco la poesia. Sii dolce con me. Sii dolce con me, sii gentile. È breve il tempo che resta. Poi saremo scie luminosissime e questa nostalgia avremo dell'umano. Come ora ne abbiamo dell'intimità. Ma non avremo le mani, non potremo fare carezze con le mani e nemmeno guance da sfiorare leggere. Una nostalgia di imperfetto si gonfierà i fotoni lucenti. Sii dolce con me, maneggiami con cura. Abbi la cautela dei cristalli con me e anche con te. Quello che siamo è prezioso più dell'opera blindata nei sotterranei, è affettivo e fragile. La vita ha bisogno di un corpo per essere e tu sii dolce con ogni corpo. Tocca leggermente, leggermente poggia il tuo piede e abbi cura di ogni meccanismo di volo, di ogni guizzo e volteggio e maturazione e radice, e scorrere d'acqua e scatto becchettio e schiudersi o svanire di foglie, fino al fenomeno della fioritura, fino al pezzo di carne sulla tavola che è corpo mangiabile, per il tuo mio ardore d'essere qui. Ringraziamo ogni tanto. Sia placido questo nostro esserci, questo essere corpi scelti per l'incastro dei compagni d'amore. Ma come va? Ed ecco qui, amici. Quindi spero di, diciamo, di aver unito sia anche un po' la rubrica del cuore, perché comunque era un inno all'amore, che nella ci sua, manca, ricordiamolo. Sì, ci manca tanto, nella sua forma più alta, ecco così, senza, senza diciamo vincoli strutturali mentali. L'amore che ha fatto mettere il riverbero un po' ovunque, un po' come il prezzemolo, però vabbè, il riverbero così. Va tutto bene, esatto, tutto bene. Tutto benissimo. Va benissimo. E niente, quindi che altro? No, perché io leggevo che tra l'altro la tua rubrica tu la ricolleghi anche molto alla speranza e devo dire che sì, insomma, anche concetti di speranza come lanciati. Mi piace dire che sono un resto di speranza per tutta la gente. Vabbè, ma mi dilungherei anche no, sul cantautorato. Ma sì, sì, parliamone un po' della di grande speranza. Ornellona. Ah. Che, sì, sì, sì. Era Ornella. Sì, era Ornella, sì, sì. E dici? Anche se è un po' ambivalente, perché io in realtà la speranza, cioè, la vedo sia in forma negativa, ma alla fine anche in forma positiva. Quindi c'è un'ambivalenza in me su questo aspetto della speranza. È molto ambivalente il tutto. E quindi è una cosa non risolta, cioè non, vabbè, che non si può risolvere, però ecco, non so che etichetta darle alla speranza, mentre l'amore è una cosa bellissima. Ma quindi... anche quella potrebbe stare a cavallo con la nostra rubrica della posta del cuore in fondo. Sì. Va bene. Bene, a questo punto hai un brano da mandare? Sì, sì, ho scelto un brano che sto studiando col maestro Adriano, il mio insegnante di canto, che saluto. Wow. E ciao Adriano. Sì, grande, che la porterò mercoledì, ecco, spero vada bene, bellissima, mi emoziono ogni volta che la sto provando. E questa non sai te? No, non sono io, perché ancora la devo, mi devo esibire, cioè con lui. E la canzone di Nina Zilli, sì, è il test, cioè il titolo del testo, è Per sempre. Se un giorno tu tornassi da me dicendo che è stato un errore lasciarmi andare lontano, lontano da te. Se un giorno tu parlassi di me dicendo che sono il tuo rimpianto e non riesci a dormire, allora ti direi stavolta sarebbe per sempre. Non importerebbe niente se le parole tue mi hanno fatto male, ma tanto vale che stavolta sia per sempre. Perché l'orgoglio in amore è un limite che sa qualcosa che non ti sai spiegare, non ti lascia andare, non chiedere a me, neghi la verità. Ora che non ti serve piangere, puoi lasciarti cadere, dimenticare, non basterà, ma illudimi che sia per sempre. Pensarti diverso da ciò che sei realmente, di quello che ti ho dato non ho avuto indietro neanche quel minimo per cui valga la pena di star male mentre affoghi nei tuoi errori e cerco di capire l'irrefrenabile bisogno di cercare amore, quel terreno che è fertile neanche a morire, invece di morire ho imparato a respirare. Ed eccoci rientrati in voce quando sono le 17 18 e 42 37 38 39 42, 40 sì. Io continuo a guardare l'orologio di Pacman che è rimasto in realtà sarebbero le 17 perché sì. Siamo un'ora avanti. Benissimo. Quando abbiamo sentito quindi parlare di pene d'amore, andiamo avanti con la prossima rubrica e parliamo di artifici che salutiamo Angelo che ci grande ha dato il contributo. Tra l'altro anticipiamo anche il fatto che c'è un regalo qui per lui lasciatogli dalla è vero. Cara Betta, grande sì. Angelo. Oggi Betta sarà ha fatto una sorpresa. Betta Natale proprio. Betta Natale. Abbiamo fatto man bassa delle sì. Avevo regalini per Betta. Tutti. Regalini di Betta. E i miei parlano di dinosauri comunque. prego. Chiaramente. Quindi dicevo, puntata di artifizi. Questa volta ci porta Angelo, ci porta a esplorare un po', facciamo una specie di mini tour virtuale a Roma, in una zona ben precisa, e alla scoperta di queste tele di nostro caro Michelangelo Merisi, detto Caravaggio. Non indugio oltre, siamo pronti con la sigla. Vai con la sigla di artifici. Grazie Angelo, grazie Angelo. Non conoscendo affatto la storia dell'arte. Grazie Angelo, grazie Angelo. Sempre gradevole, sempre importante. Grazie Angelo, grazie Angelo. Ma ancora vorresti narrare la storia dell'arte. Amiche e amici, bentornati ad Artifici. Torniamo a parlare di una tela di Caravaggio, anche se per radio è difficile parlare di tele, mancando la possibilità di una visione diretta di ciò di cui si parla, ma faccio appello alla vostra fantasia. Parliamo del San Matteo e l'Angelo, che si trova a Roma, San Luigi dei Francesi, Cappella Contarelli. San Luigi dei Francesi è la chiesa quasi di fronte al Senato. Quando si va verso Piazza Navona, a sinistra c'è il Senato, a destra c'è San Luigi dei Francesi. Caravaggio aveva già dipinto per questa cappella due tele, la vocazione di San Matteo e il martirio di Matteo. E l'erede del cardinale Quantrell gli commissionò un San Matteo seduto in atto di scrivere il suo Vangelo con un angelo accanto. Si riteneva, per molto tempo si è ritenuto, che il Vangelo di Matteo fosse stato il primo ad essere scritto. In realtà pare che è più probabile che sia stato preceduto da quello di Marco. Bisogna tenere presente che parlare di Vangelo di Matteo, di Marco, di Luca o di Giovanni non vuol dire che li abbiano scritti loro direttamente. Infatti anche nella formulazione ufficiale, cioè nelle messe, per dirla chiara, si parla del Vangelo secondo Matteo, secondo Luca. Quel secondo sta ad indicare la impossibilità di stabilire chi materialmente l'abbia scritto, e indica quindi che quello scritto proviene dall'ambiente vicino ai vari evangelisti, dai loro discepoli e dai loro seguaci. Quindi Vangelo secondo Matteo. E Caravaggio dipinge la tela a modo suo, cioè non rappresenta un bel santo ieratico, dotto, in atto di scrivere con un angelo eccetera, ma raffigura un rozzo contadino seduto con i piedi sbattuti in faccia all'osservatore, piedi sporchi, viso da semianalfabeta, ed è il viso che di solito si dà tradizionalmente a Socrate, il dotto ignorante per antonomasia. E accanto a Matteo c'è un angelo abbastanza apollineo e troppo accostato al santo, che con la manina destra prende la manona destra dello zoticone e scrive. Quindi a scrivere non è Matteo, ma è l'angelo. Questa è stata vista, un'aperta critica agli apostoli, quindi alla Chiesa, che si ritiene erede di quegli apostoli, cioè come a dire: non l'avete scritto voi, no? I Vangeli non provengono da voi, ma provengono direttamente dal Padre Eterno. Quindi è una scrittura in calamum, cioè c'è stato chi vi ha guidato la mano, non solo l'ispirazione, ma proprio letteralmente la scrittura, perché i vostri predecessori, di riferimento, erano semianalfabeti. Questo era un primo elemento ritenuto irriguardoso. ma insieme anche all'aspetto del santo, quindi uno zoticone con un fanciullo che scrive al posto suo. Ci sono elementi che diciamo invece erano stati apprezzati. Dalla tela si vede bene che Matteo scrive in aramaico, laddove secondo la tradizione i Vangeli sarebbero stati scritti, i primi testi erano in greco. Quindi Vangelo, Caravaggio fa vedere un Matteo che scrive in aramaico per avvalorare la tesi tutta cattolica e contrastata dai protestanti della esistenza di un originale in aramaico. Tutto questo però non bastò per evitare il rifiuto della tela. Caravaggio non si perdette d'animo, fece una seconda versione del Matteo e l'Angelo e lì assegnò a Matteo le sembianze di un altro dotto, San Gerolamo. San Gerolamo, dottissimo, insomma, ha tradotto tutti i testi, eccetera. E l'angelo non è accanto a Matteo, ma viene dall'alto. E sulle dita pare che stia compitando le generazioni, la genealogia di Gesù Cristo, che così comincia il Vangelo di Matteo. Nella tela, che a parere di molti è meno bella della prima, prima che non ho detto che purtroppo si trovava a Berlino, è andata distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale e di essa esiste solo una foto in bianco e nero, ma basta per apprezzarne la qualità, i temi e la cromia. La seconda tela è meno bella, però insomma è lì, è comunque Caravaggio. E guardando bene si vede come Caravaggio si sia voluto vendicare in riferimento al rifiuto, perché San Matteo non è seduto, poggia un ginocchio sullo sgabello. Questo sgabello è poggiato su una pedana, ma il quarto piede dello sgabello è fuori dalla pedana e lo si vede, quello davanti. Quasi a dire, caro Matteo, e quindi cara Chiesa, vedi che sei messa male, cioè sei in una posizione traballante. Questa satira evidentissima, per fortuna non è stata colta dai committenti e la tela è lì. Quindi la prossima passeggiata per chi è a Roma o arriva a Roma è San Luigi dei Francesi. Peraltro a 500 metri, io dico sulla destra rispetto alla chiesa, c'è un'altra chiesa, Sant'Agostino, e lì c'è un'altra tela di Caravaggio ed è la Madonna dei Pellegrini. Quindi nel giro di 500 metri ci sono quattro capolavori caravaggeschi. Andatevi a vedere. Grazie, buona continuazione. Certocelle Avengers alle 18.52 c'è stato un improvviso takeover della dirigenza. Lo vediamo da lontano. Ma eccolo che le riesce. Capitano. Sì, l'avete visto. Capitano, mio capitano. Sì, sì. Dove sei? È in arrivo, Allora spieghiamo, il suo nonno si è dovuto allontanare perché vive in diretta un trauma fonico. Sì, esatto. poi ne parlerà nella prossima puntata. Esatto. Ma noi che ci frega, stavamo tanto bene prima. Ha dovuto sviluppare il dono dell'ubiquità. Comunque quando ti sentirei la puntata di noi. Tutto abbiamo fatto senza. Quando ti sentirai la puntata sarei fiero di noi, maestro. Restituisco la poltrona. Ma io l'ho fatto per voi. È stremato. Perché vabbè, solo nell'emergenza di ci si tempra. Di qualche minuto, quanto sei stato assente? Neanche una decina di minuti. Posso ce la siamo cavata benissimo. Sì. C'era ancora carino. Vabbè, si mette sempre un po' in mezzo. Salutiamo Angelo. Ringraziamo ancora Angelo. Sì, esatto. Allora passiamo come da programma. Vabbè, maestro vuole fare la sua rubrica tanto attesa. Ci mancherebbe. Sono soltanto tanto quattro puntate che ci provo e alla fine e niente, allora saltiamola, è questa cosa, saltiamola anche questa volta, dai, facciamo la prossima. No vabbè, questo è il momento dei solisti di Radio Forte, cioè i solisti della scuola di musica. Sigla. Io ci sarò con tutto il mio entusiasmo, un'altra storia da vivere c'è ora. Oh, sono contento di tornare a questa rubrica che mancava da tanto tempo e che parla appunto di quel mondo di musicisti della scuola di musica che non fanno parte della Musica Insieme, bensì fanno parte di questo mondo a parte dei solisti, appunto coloro che si esibiscono da soli e quindi evocano un po' Piero Perù, in poche parole Piero Perù, che poi però ha rifondato il FIBA. Avrei qualcosa da dire infatti, vabbè. Scusate, vai. Comunque noi non siamo questo. E si è rotto tutto. Niente. Ognuno di loro, di questi studenti, nelle scuole di musica ha imparato a esprimere liberamente i propri pensieri e sentimenti in modo musicale. Bellissimo, siamo esattamente questo. E infatti primi saranno dei solisti che esibizioni di solisti. Non c'è differenza. Primi saranno dei solisti che si esibiranno. Esibizioni di solisti. Esattamente. Siamo in parallelo sempre con la scuola di musica salutiamo della Yamaha, che salutiamo. Ma in parallelo la competizione. In parallelo la competizione. Lo facciamo parallela fratricida competizione. Il modello è sempre quello di insomma che vi raccontai. Dell'antagonismo appunto fra l'uomo e la macchina, sta di fatto che noi abbiamo anche un'arma in più e quest'arma in più è colui che accompagna spesso i solisti e risponde a questo nome. L'arrangia per noi. C'ha già una sigla sua. Biascicone l'arrangia per noi. Ti butti sempre giù. Biascicone l'arrangia per noi. Biascicone l'arreda per noi. E per la sottorubrica di Biascicone quindi ascoltiamo Oltea con Mi sono innamorata di te. Si è innamorata ovviamente di Biascicone che l'accompagnava al piano nell'ultimo saggio di Musica Forte. Mi sono innamorata di te perché non avevo niente da fare il giorno, volevo qualcuno da incontrare la notte, volevo qualcosa da sognare. Mi sono innamorata di te perché non volevo più stare sola il giorno, volevo parlare dei miei sogni la notte, parlare d'amore. Ed ora che avrei mille cose da fare, io sento i miei sogni svanire, ma non so più pensare a nient'altro che a te. Mi sono innamorata di te e adesso non so neppure averti incontrato la notte. Ti vengo a cercare. stringi come Big Jim, radio forte, pick un player solo quando gioco a pastinotte, c'entra c'è la Ranger Style. Ed eccoci tornati a pochi minuti dalla conclusione di questa puntata. Andiamo a trovare la soluzione, i risultati di questo quizzone. Il degno vincitore, il podio, la degna dai. Vincitrice ce di lo questo dell'Europa. Quizzettone. Lo chiedo io. Allora abbiamo facciamo una classifica, diciamo. Andiamo di classifica. Allora purtroppo all'ultimo posto un rullo di tamburi. Dacci i numeri. Duru duru duru duru duru duru duru duru duru duru. Io. Grande. Allora, i numeri sono: all'ultimo posto abbiamo purtroppo la nostra Viola e la nostra Gabri. È proprio... Sapete che chi vi sta all'ultimo posto? Premio simpatia, premio simpatia. Gli ultimi saranno gli ultimi saranno i primi, non in questo però caso. No, in genere ha un premio di consolazione, volevo dire questo. Ah, io ho finito i Nutella. Tipo il cucchiaio di legno. Nutella, forse pubblicità. Guarda, non ma io e Gabri ce l'andiamo a prendere il premio di consolazione. Ce l'ho già mangiato il premio di consolazione. So che dire, volete un bicchiere d'acqua? No. Non c'è neanche il premio principale. Ok, abbiamo al posto successivo, insomma, con un solo punto, il nostro Francesco. Mitico! Grande Franci! Sul podio, in terza posizione. Mentre in seconda posizione un pari merito. Abbiamo la nostra Betta e il nostro suono, i nostri fonici di fiducia alla seconda posizione. Grazie. Posso dirlo io? Allora, lo dico io. È in prima posizione, ragazzi, con questa, diciamo, voglia, questa forza di questo quizzone, questa invenzione così voluta, si è impegnata tantissimo la nostra Virgin, donandoci tutti qua varie cose da con utilizzare. Punteggio decimale. E comunque il primo posto del quizzozzone è di Virgin. Grazie. Con 3,75 punti. Nonostante io abbia fatto 5 domande e abbia ricevuto meno domande di quante io ne abbia fatte, vince a mani basse proprio. Vabbè, ma non mi piace vantarmi comunque. Quindi vogliamo riconteggio. Questo quiz è truccato. Un paradosso matematico. Non è una radio libera. Notaio, cosa perché i punti sono 3. Ci farò una puntata a parte. Cosa dice il notaio? Notaro? Che sono le 19 sono un minuto. Che abbiamo ma allora, però c'è un conflitto di interessi, Virgin. Scappato con i soldi. Vabbè, calcolando che non si vince niente, niente di niente, io dichiaro vinta questa puntata da me e possiamo anche... È stato un successo. E auguri a noi, auguri alla radio. Auguri per i nostri 50 anni, ringraziamo 50 anni. Tristezza. Vabbè, basta, abbiamo fatto 50 puntate da 2 ore, abbiamo pure... Vabbè, è un nostro piccolo traguardo. Mamma mia. Ma comunque questi 50 pasti, pietre miliari li trovate anche in podcast, certo, giusto sul sito portebrenestino.net, sembra lo sponsor finale radio. Volevo anche dire che proprio l'altro ieri noi abbiamo fatto e compiuto 3 anni, quindi un altro un applauso. Tutti i numeri da mettere al pizzo per le prossime puntate. E se non ci sono altri numeri da ricordare, vi ricordo che vi voglio bene, ci vediamo fra 2 settimane anche noi. E sigla. Ciao!